Avanti, un controllo, non è per favore. Mi ascolti? Sì, io. Ciao Giovanni, sono. Ciao Giovanni, ma non è al controllo, per favore. Vai avanti, ti sentivo abbastanza forte, chiaro. Vai avanti, tieni presente che c'è un apparecchio che poco niente ti posso dire. Comunque vai, prova. Capo, no, sto provando linea retta, perché come va? Non mi sembra che vada bene. C'è un'inter che non è tanto affidabile, guarda, mi stavi arrivando fila, mi stavi arrivando tre di radio. Prova a vedere il segnale. 1, 2, 3, 4. No, credo non sia affidabile, non è affidabile il segnale. Capo, no, quella ci sia così, perché non sta andando bene manco qua. Aspetta un attimino, che faccio un'altra prova. Giovanni, ci sei? Forte chiaro. Va meglio di prima? Forse ti sento, molto più forte, però aspetta che faccio un'altra parte. Dove sei tu adesso? La Savona, in vettura sono. Ma in che zona? Verso Pesaro. Ah, Giovanni, ho capito. Stanco. Sono io, vicino ai cavalli, chi sei? Gianni doppio rum. Già, passa un povero, l'altro giorno ti chiedevo proprio di te. Ma no, io entro sempre. Non ti ho mai più sentito, infatti ho detto, ma è Gianni e niente, però non mi hanno dato spiegazioni. Cos'è che stai usando già? No, stavo provando linea elettro che mi hanno dato, ma non va, non va di watt, e il relay è ritardato. Quando premo non si sente, più dopo un bel po' stacca. E io tutta mattina mi stavo verificando con un 2009, con quel GPS, perché vedete che ha preso qualche spazio di tensione e non mi funzionava niente. Comunque sono contento, sono andato a transito, quanto adesso l'ho riacceso e funzionava. L'ho messo in una vettura, però cazzo non riesco a... Non so se funziona. Se mi è tempo, provo a ricollegarlo qua nella vettura, per vedere se va. E se non ci metti molto, perché devo fare roba? Guarda, ti metto 5 secondi, sta consiglio di metto male. La alimentazione locale, nient'altro. Vai, tranquillo, lo proviamo, non c'è problema. Aspetta un attimo, intanto che devo regolarmi una cosa io. Allora 2 secondi, scollego questo e attacco l'altro. Ok, allora, vai, ancora velocissimo. Cambi, ascolti, cambi. Vabbè Giovanni, ci sei. Attenzione Giovanni, stanco, ci sei. Attenzione al canale 10. Attenzione al canale 10. Ebbene, sente male. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Buonasera, Luca da questa parte, se mi copi, io ti sento in mezzo al QRM perché c'è molto disturbo in aria. Ti sento anch'io male, però già ti sento, dai. Ti capisco, Luca. E comunque l'antenna è a casa, arrivata, mezzo assemblata, in attesa di sabato da metter su. Ah, buono, dai. Mi fa piacere. Che cavo ci stai mettendo, Luca? Per ora metto un RG58 nuovo e poi piano piano si migliorerà. Ti conviene l'H1000 direttamente. Prendi un H1000 e ti dura nel tempo. E adesso c'è quello, perché sono riuscito a farlo passare da un tubo libero che avevo, e così non ho bucato muro, prendendo magari un altro cavo più grosso ho difficoltà e dovrò bucare il muro, fare una cosa un po' più seria. Ora voglio iniziare così. L'H100 per dire è la stessa grossezza dell'LG58, però c'è doppia calza, è schermato, insomma, va molto meglio dell'LG58, perché vabbè, là, per il segnale, ma io l'LG58 l'ho avuto per tanti anni, non mi ha mai dato problemi, però quando l'ho tolto era cotto. Ma stiamo parlando di 10 metri, non è che abbia neanche tanta caduta di segnale, perché io sono all'ultimo piano e l'antenna è sopra di me. Ah, e allora già va bene, dai. Allora mi prendi tale epoca. Va benissimo, allora. E quindi l'hai già piantata l'antenna, l'hai già assemblata. È divisa in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 elementi da attaccare uno con l'altro. E adesso ho iniziato a piazzare la maggior parte qua dentro casa, poi il resto lo farò su nella terrazza che c'è spazio. Ah, se a terrazza il tetto già viene bene a lavorare come uno spiazzo. Ma è senza radiali quella. Scusami? È senza radiali. No, ha 3 o 4. Non me la metto più. Scusami. Ha 3 radiali e dovrebbero essere di 90 cm l'uno. Cappa. Allora già va bene, dai. È una 5/8. No, nella descrizione è mezz'onda. Ah, capito. Perché non ha preso la 5/8 direttamente? E boh, mi è stata simpatica questa dalla fotografia. È lunga 6 metri, 620 centimetri. E speriamo, vada bene. Sì, andrà bene. Perché quando eravamo nei Grand Prix non andavamo bene. Però andava bene lo stesso. E sabato facciamo l'inaugurazione. Auguriamoci che sia bel tempo. Eh sì, bel tempo e non ci sia vento, perché mi devo mettere l'imbragatura col cordoncino di sicurezza, perché insomma l'altezza c'è, risulta essere un 7° piano. Ho capito, ma tu dove devi attaccare l'antenna? Fammi capace, alla cabina dell'ascensore o dove? Sì. Io sono... Scusa Bianco un attimino, che ho una bassa. Avanti se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare, che mi hanno detto che succede un livello QRM, voglio sapere se l'apparecchio sta andando bene. Avanti te l'ha detto. Ciao, ma l'ha detto Luca, quello di Bialitalia. Che stai dicendo tu a livello QRM, è lui che non sento io. Anche io lo sento basso, però io lo sento. Adesso gli arrivo a l'antenna, mi sa ma certo della piazza. Vediamo, 6, 9, 10, abbondante qua. Stai andando benissimo, non bene, benissimo, alla grande. Poi sono col Galassi, dai. Col Galassi Saturnecco, la mia chicca. Va bene, va sempre bene con la radio. Anche con l'abbinamento microfonico, con tutto, va benissimo. Ciao Luca, se mi senti, ma io non ti sento. Sta telefonando Claudio. Non è entrato nessuno stasera. No, è accesa la radio, infatti stavo ascoltando poi un HF, adesso ho abbassato il volume perché ero in HF in 80 metri. Ho visto il segnale e l'ho risollevato, visto che c'eri tu, se no non c'era nessuno. E vabbè, già te l'ho detto, cioè alti e bassi, ma l'importante ogni tanto qualcuno si faccia sentire. Vabbè, no, già entra anche Carlo, quando c'è già entra, a meno che stia lavorando. Qualcuno entra sempre. Qui ci sono quelli che da ogni tanto, e va bene anche, ci fa piacere sempre quando entra gente. A Giulio non ho più sentito, io gli ho detto che già entravo, però lui non è più entrato. Ma io so che Giulio stava modulando in canali alti, parli di ex con questa associazione, tipo Alfa Tango, che ci sono gli iscritti, capito? No, buglione, entra e però c'è più il tescio. Vabbè, già verrà anche lui, già ritornerà. Ognuno faccia quello che vuole. Io non ho mai mollato, anche quando tu non c'eri, entravo tutta la sera. Io perché avevo altre cose a fare, impegni, eccetera, poi l'antenna non l'avevo messa, l'avevo solo messa per i 10 metri, poi mi sono rotto le balle, ho detto sono a piatto, la lascio stare, quando io voglio entro mi faccio due chiacchiere. Ma questa qui l'antenna che cos'è? Specifica per la 27 oppure fa 10-11? No, questa è specifica per la 27, questa è la solita Mantova, l'altra la Smart Tech, è quella la uso per i 10 metri. Ma perché io mi ricordo che tu che avevi detto che faceva anche 10 metri, adesso questa qui l'ha piazzata da poco. Sì, da poco l'ho messa. No, prima ce n'era una e faceva 10-11, capito? La Smart Tech fa anche i 10 metri e gli 11 metri. Mi sono rotto le balle, siccome ho le radio ho invertito, con 340 lo lascio per i 10 metri con la Smart Tech e il 140 ce l'ho con l'antenna fissa con la mappa. Vabbè. Se hai la possibilità, come spazio, Qui viene spazio, vedete come te guarda il giardino, tutto recintato, a 1,50 m di altezza, quindi a voglia, sono parificati lì a un angolo, già va bene. Allora, le hai messi sul tetto, le hai messi sui pali della recinzione? No, sul muro, che pali? Cosa c'entra i pali? Perché chi ti ringrazia il dito? Muro, cioè il muro della recinzione è 1,50 m, capito? Quindi il palo, il piantone, i piantoni sono attaccati lì, sono tre vicini a distanza di 2 metri uno dall'altro. Di capo quanto ce l'hai voluto qua? Di capo? No, io dalla Mantova mi faccio 15 metri di capo, neanche 20 metri forse, perché fa il giro dietro il Calvario e entra nella finestra che c'ho qua, che dà dietro il Calvario. Allora già è poco, non è tanto, io ne ho 20 metri di cavo, e con tutto che sono al terzo piano, però 20 metri di cavo ci sono voluti, e vabbè, ognuno si arrangia come meglio può, là. No, io c'ho cavo quello che messo i paloni, buono, c'ho il... per la 27 ho messo quello H110 che me l'aveva detto Fabrizio di prenderlo, è buonissimo, poca dispersione, poi te li ripeto ne ho poco perché fa il giro dietro la casa, passa, capito? Ma lo vedi, capo? È canalizzato, fatto il corrugato, messo, fatto tutta la canala a muro del giardino e poi entra nel corridoio del Calvario, ma lì è per terra, non me ne frega niente, non si vede, e poi entra nella finestra, capito? No, sul tetto, sul tetto dove mi aggancio, è tegole, non c'è nessun aggancio, c'è la canna fumaria del caminetto, ma non mi aggancio lì, mi viene una paduta in terra, no, tetto non si tocca, già ne ho spazio, ma lì non voglio spazio che c'è a mettere antenne. La fumaiola. Allora, la fumaiola. ma lì ti la rabbia, non fa mettendo lì nel fumaiolo, dai. Te lo puoi buttare in terra, secondo me metto che c'è di trasaduto. No. Vabbè, già si può mettere anche con le tegole, basta spostare una tegola, ci sarà sempre qualche colonna nello scheletro del tetto, dai. Ci sarà qualche colonna, ci puoi attaccare una colonna e farlo uscire dalle tegole, ma non conviene perché può perdere, può fare il da problema. Come ti aveva fatto Franco California? No, che colava l'acqua alla soffitta, no, assolutamente, è opposto già, ma è opposto, un bel, posso anche fare lo scavo e fare un plito al cemento armato e tirare su un traliccio a 20 metri e punti l'antenna in alto, no, non c'è un problema qua, assolutamente, preferito non toccare niente, perché è più pericoloso. Un momento che fa di yoga, gioca la metà per la gabbiuria. No. Già va bene così, piantonati a terra, ma con tiranti ciò, figurati. Allora la manta sarà 4-5 metri. 5 metri, proprio due tubi e mezzo ci sono, senza il piantone. La 510 VU, quella è 8 metri, perché quella deve lavorare in alto. E poi c'è il palo che mantiene i dipoli, l'aggancio di dipoli che è 4 metri. Basta, va bene così. E lui deve andare, e cosa ci fai? La stazione dell'aeronautica dove vai? Va bene, basta che abbi un'antenna per ogni frequenza e basta così. Ma metterla sul tetto quando ci sono le tegole, è sempre un lavoraccio che devi fare, devi spostare le tegole, devi entrare fare il buco, entrare il tubo e attaccarlo a qualche colonna, come aveva fatto Giuseppe Tornado quando l'ha messa però dove abitava prima, che era staccata, gliel'ha fatto un muratore, gli ha fatto un bel lavoro, infatti mi ha ancora l'antenna, un peccato con l'antenna. Lo so già, ma no, no, va bene, fuori un posto molto ventilato, no? Mi crea problemi, no, poi va bene così, posso sollevarla mi, posso tirare su altri 2 metri, più aggiungere altri 2, non ci sono problemi, però so se arrivo bene a Porto Torres, a Alghero, arrivo bene a tutte le parti, già me ne affutti, per fare 2 chiacchiere, la voglia. E adesso sei tu, adesso c'ho un bel segnale. Ehi, già, la segnale già c'è, la radio poi questa è sempre quella, va benissimo, c'è tutta la linea, me l'ho sempre tenuta come ti ho detto prima, cosa vai a fare? Poi ti serve, vedi, devi attaccarti un baracchino, cazzo così in combatte, non arrivi da Nogara alla Andriga, ma ho questa, non ha bisogno di legnare nulla, mi sto usando 30 watt, 50 modulati, e va bene. E va più che bene, ottimo per la truppa. Ok, già vado a vedere se si è accesa la calza. Ripreso. E avanti se vuoi entrare qualcuno. Sono Luca, sono rientrato. Ah, sì, è Luca. No, Claudio mi ha detto che mi ascolta forte, mi ascolta bene, quindi dipende da te il fatto che mi senti con quel rem. È copiato. Vabbè, sono ancora accampato. E adesso come ti muore in Sant'Ena, lo vedi? Quanto cambia, dal giorno alla notte cambia. Interessante che la piazzi bene. Wow, veramente non vedo l'ora di piazzarla e vedere come si esce. Adesso il prossimo passo mi servirà a procurarmi una stufetta per uscire un po' più forte, da se voglio prendere in giro i russi, che li sento forte a giorni, russi, americani, però con 4 watt non hanno il logo. Ma ci vogliono watt per arrivare in chili, minimo devi mettere 600 watt. No, non ci penso neanche, no, volevo qualcosina per uscire un po' più forte, ma se c'è una buona propagazione già si arriva. E loro c'hanno 1000 watt, 1000-1500 watt, questi russi, questi americani, che arrivano 9:30 a volte a casa. Vabbè, no, non ho quella pretesa. Io mi ricordo 20 anni, 25 anni fa, quando modulavo, che esempio con Barcellona, con gli spagnoli, arrivavo a palla, proprio li crepavo, e magari uscivo 15-30 watt. Adesso non mi ricordo che finale piccolino avevo. Di quel piano si è parlato? Fine anni... facciamo metà anni 90, da. E adesso con l'inquinamento atmosferico che c'è, le cose sono cambiate, non è più come prima. Prima io con portatile arrivavo ad Alghero, con portatile parlavo con Alghero da casa di mamma, da Sacro Cuore. E cosa è cambiato? È cambiato che c'è inquinamento atmosferico dei telefonini, tutte queste cose che ci sono nell'aria, la propagazione la rovina. Vabbè, però un piccolo lineare già mi avrebbe fatto piacere buscarlo, e adesso vediamo un po' se riesco a trovarlo, è che tutto quello che trovi in rete di usato magari ti arriva a casa e non funziona, come fai a fidarti? Posso prenderlo nuovo come ho fatto io. Io ho preso un lineare a 300 watt che era molto buono. andava molto molto bene, arrivavo con forza da tutte le parti, 9.30 sempre il segnale mi dava. Quello quindi ci ho fatto una cazzata, va bene, lo va, già ve lo riprendo. Ma poi è troppa carne al fuoco, adesso un passo alla volta, piano piano, se no da un gusto diventa un impegno. Vabbè, quando uno c'ha la passione spende anche. Guarda quelli della RM Italy, che sono lineari favolosi. Vabbè, quando uno c'ha la passione, ma quando le passioni sono troppe. Vabbè. Bisogna dare un taglio. Io guarda, avevo la passione della pesca, della fotografia. La fotografia l'ho avuta un bel di anni. E ci spendevo una marca di soldi, solo gli obiettivi, i filtri, questo e quell'altro. Perché io facevo anche la macrofotografia, eccetera. E avevo macchine professionali. Ho sempre avuto macchine professionali. Le spese ci sono, nella pesca la stessa cosa, avevo la passione della pesca e spendevo una marchesa di Zacchini, però c'avevo quella malachina, l'ho sempre avuta. Io da quando avevo 16, 14, 16 anni c'avevo la passione del malachina. Ma quando c'hai la barchetta a Porto Conte l'impegno diventa pesante, tra posto barca e manutenzione dei motori pesa. Ma poi in estate ti divirti, non si può avere tutto, se no te la porti a terra e poi te la fai tu, la manutenzione e risparmi se sei fatto. Quello sicuramente sì, mi faccio tutto io, ma solamente di posto barca non ti dico quanto costa. E in estate, quando inizi a mettere benzina, scendono le lacrime. Consumavo? Due motori aspirati da 205 cavalli l'uno. Quindi c'è la patente nautica tu? A benzina, sì, e beh certo, più ce l'avevo già 15 anni. No, io avevo un amico che ne aveva due di barche, non una, due, ne aveva una nella zona di Sintino e l'altra ad Alghero, sempre ormeggiate dove si paga, dove ci sono i puntini galleggianti, e a volte ci vanno da una parte, a volte ci vanno dall'altra, questo c'è i soldi, e ci aveva la stessa con due motori 80 cavalli nel minuto. Ma poi sembra fatta apposta, ogni anno ce n'è una con la barca. L'anno scorso mi si è bruciato un frigo e ho dovuto cambiare il frigo. E spese continue. Come quando io avevo la moto, pagavo di più per il tagliando della moto che quello della macchina, immagina. La moto me l'ho venduta perché col mal di schiena, con l'ernia del disco non andava d'accordo, e avevo un Wustrom 650 Suzuki che ci facevo anche campeggio e me l'ho venduta. Io c'avevo Suzuki 400 Burgman, poi ho avuto il 150 e il 400, poi ho avuto quella brutta, come cacchio si chiama, che mi ha convinto a prenderla di struffarlo. Cazzo, e poi non mi piaceva, quando la guardavo non mi piaceva, ma non mi viene il nome, lo sai, quella che mischiava l'olio con l'acqua, da quando la compravi aveva questo difetto. No, la moto era una mia grande passione, però col problema del coso, della schiena, ho dovuto mollare per forza, perché tutte le volte che uscivo poi rimanevo bloccato per 3 giorni. No, io la moto l'ho usata per un po' di tempo, viaggiavo anche a Portotoro, si mostra che con la pioggia, c'avevo tutta l'attrezzatura, c'avevo il giubbotto, i pantaloni antiacqua, c'avevo tutto qua. Viaggiavo anche a Portotoro, sfigurati, a volte... se c'era la macchina che aveva qualche problema, che l'avevo provato a fare il tagliato, viaggiavo in moto e andava benissimo, con tutto che avevo due macchine e la moto, però preferivo viaggiare in moto che con l'altra macchina. No, ma quello pure io, è che tutte le volte che uscivo in moto le vibrazioni, le insaccate sui reni, e c'ho un'ernia io lì, un'ernia lombare che mi provoca la sciatica, tutte le volte che uscivo poi era deleterio. E adesso ce l'ho qui la sciatica, mamma mia, mi sto mettendo col massimo cavallo e un po' me la sto facendo passare, però ce l'avevo forte, mi venivano le fitte addirittura, da non poter camminare. io l'anno scorso ho risolto con l'ozonoterapia, e ti facevano queste punture direttamente in mezzo alle vertebre che costano un patrimonio, però mi avevano rimesso in piedi, e adesso mi sono messo a dieta proprio per quello, perché il peso comunque incide parecchio. Eh sì, il peso è normale che incida, ma io sono a dieta sempre, perché prima non ne mangio, lo mangio solo la domenica e basta. Poi gli altri giorni, primo per me non esiste, mangio un'insalata con una pettina, oppure faccio una caprese, qualsiasi cosa, col pesce, ma non mangio mai più. Io invece il primo lo devo evitare per forza adesso, ma di piacermi mi piace a mille. A piacere mi piace anche a me, ma non le posso mangiare, perché carboidrati io non le posso immettere nel corpo più di tanto. Una bella fregatura, insomma. A me piace mangiarmi la pasta, farmi una carbonara, anche un aglio olio mi piacerebbe. Io mi ricordo con gli amici quando tornavamo da ballare, io che andavo a casa ci facciamo un aglio olio e continuavo la nottata a spizza di sette di manzana. Poi a me piace cucinare, nonostante non lo faccia per lavoro, però mi piace, mi rilassa. Il sabato mi dedico a cucinare perché è una cosa che mi dà contro lo stress, mi rilassa, mi piace. E adesso invece non devo cucinare, sennò, perché se cucino poi tocca mangiare. Io ho sempre cucinato, da quando ero a casa di mamma. Mia madre mi diceva, figlio mio, vieni che mamma ti fa vedere come si fa questo, che ti può sempre servire quando ti sposi, se tua moglie non sta bene, cosa, così hai imparato a cucinare e poi la cosa è tu. E così facevo, ho sempre cucinato io, amo che a me piace cucinare, però prima cucinava la garanzura, cosa vuol dire? A me piaceva invitare gente il sabato a pranzo, amici, venite che ho cucinato, e corriani perché sapevano che c'era roba buona. Gli amici, quando ho preso la casa al mare, me ne piombavano sempre all'ora di cena, e dovevo sempre cucinare, invitarli a cena. Alla fine la gente aveva lì, ascolta, facciamo una cosa, compriamo pancetta, non stiamo pancetta, se no cazzo ci riusciamo fuori di casa se facciamo sempre roba che costa. Vabbè, è buona regola che gli ospiti devono arrivare devono arrivare bussando coi piedi, se no diventa pesanti. Io mi ho dato un taglio a fare roba a cazzo, carne di arrostire pesce, arrostire carne di cavallo, questo e quell'altro, alla fine ci uscivo fuori di casa io. E allora sono pancetta, via, chi ne vuole le mangia, chi non ne vuole la sassà. Raga, non ripiazzi, si posa in terra. Poi la pancetta a me è la cosa che mi piace di più arrosto, lei è la cosa che mi piace di più, quella è il capocollo, impazzisco io. Tutte le cose grasse sono buone. Sì, ma il grasso si scioglie, a me me l'ha spiegato il dottore, mi ha detto io non sto uscendo da mangiare la pancetta perché stavo facendo questo discorso qua di grassi. Io sto uscendo da mangiare pancetta arrosto, però se la fai graticola i grassi li perdono, se li fai in panella rimangono dentro e quella è tutta roba che ti mangi, capito? In panella lo fa, ma se in graticola i grassi scendono e viene anche buona. Io ho anche la graticola elettrica, mi ho fatto lo zimino sopra la graticola elettrica, ma sai quanto mi è venuto buono, bello croccato. Io questo periodo non lo so perché mi è venuto in mente, ma me ne sto morendo in voglia di mangiarmi le anguille, e non lo so perché, però vi raggio, ce l'ho qua attaccata al galgarozzo, la gana raggio proprio. Sarei incinto. E di profilo già sembra un po' incinto, mi ancora sono sopra i 100. Vabbè, già bassa. Anche io sono arrivato a quel peso lì, poi abbassato. E io sono già un mese e mezzo a dieta, ho perso 10 kg e adesso sono proprio a livello dei 100. Infatti non vedo l'ora di tornare a due cifre. scendere sotto i 100 e poi perderne altri 10 piano piano. Sì, ma non esagerare, io in un anno ho preso 50 kg in un anno. Sì, magari, ma no, sarebbe anche troppo per me, dai. Sono partito da 110, ne ho perso 10 e sono più o meno 100 qualcosa. Ma se arrivo a 90, 89 già mi va bene. Sì, secondo quanto sei alto, io sono 1,82 e a me va bene anche 90. E io sono più basso, sono 1,75, ma rispetto ai 110 e passa che ci avevo, arrivare a quel peso me lo bacio. Vabbè, ma magari anche di meno. Anche di meno dovresti scendere. Vabbè, poi magari ti regoli, perché non è tanto dimagrire, è quanto mantenere il peso. Infatti, a perdere chili non è un problema. Ora mi sono messo in testa di perderli piano piano, un chilo a settimana, per cercare poi di arrivarci piano piano al peso, perché invece fare il taglio del peso e perdere 10 kg in 3 settimane l'ho già fatto, lo facevo, combattevo, per cui quando dovevo rientrare in categoria sarravo la bocca, petto di pollo e boh, sudorina, corda e discende, cioè, solo che con la stessa velocità che li perdevo poi li riprendevo. Invece adesso con la nutrizionista stiamo cercando di calare piano, anche perché se scendi troppo in fretta poi la pelle risulta la zuava, rimane abbondante ed è bruttissima, una cosa brutta. Invece così anche la pelle, che è elastica, piano piano si adegua. L'elasticità un po' la più viene dimagrendo. Io la verità, ho preso tutti quei chili e ho qualche smagliatura sotto le braccia, qualche smagliatura, ma non pelle non ne ho, qualche piccola smagliatura. Oh, si vede un po', non è che sia molto accentuato, però un po' si vede, capito? Come dimagrisci si vede. Quando tu sei grosso la pelle si dilata e poi non ha più l'elasticità di prima, capito? Quando dimagrisci. E per il concorso di bellezza come fai? Cosa? Per il concorso di bellezza come fai se hai due smagliature? No, a parte che non si vedono perché sono sotto, dove c'è l'ascella lì sotto sono. E poi il concorso di bellezza lascio fare a chi è bello. Io oramai ho la mia età e magari prima quando ero ragazzo poi avrei potuto farlo, ma adesso cosa posso? Adesso c'ho 66 anni, cosa faccio? Adesso badiamo a cose più importanti. Vabbè, ogni età c'ha le sue cose. Io per dire facevo tante cose, facevo guidavo l'ambulanza, facevo volontario, facevo altri incendi, facevo mille cose, ho volato tutto, perché a una certa età poi bisogna anche dare un taglio alle cose. Non si può fare tutto quando si è diventato più grande. Da ragazzo si possono fare tante cose perché c'è la frenesia di farli, ma poi dai un taglio alle cose. Io non ho quell'età lì, ne ho 10 di meno, ma le cose non cambiano, già sono uguali. Ma io non li dimostro l'età che ho, non la dimostro. Le dimostro di meno, però ce li ho. E si sentono perché i dolori si sentono. L'età passa, il tempo passa, non venuta di va, i dolori arrivano, e meno male me. E meno male che passa il tempo, se non passa vuol dire che siamo morti. Infatti, è proprio quello il discorso. Va. E comunque, a pescare non stai andando? Negativo, io e la pesca non andiamo d'accordo. A me la pesca non mi ha mai appassionato. Del mare io ho tutti i brevetti di immersione con le bombole, ho fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, però facevo speleo, sub, facevo fotografia sott'acqua, ma di pescare non mi è mai interessato, non mi piace. Vabbè, ma uno con la barca, cavolo, solitamente a pescare ci vai, con la canna, non dico che per forza ti devi immergere, perché perché io ho fatto sia pesca sul mare perché pesca con la casa, ed era appassionato di tutti e due. Anche quella era una passione, fucili, fucile, alpioni, io vi dasso, mamma mia, e pugnali, la maschera nuova, quella lì è più buona, entra meno acqua, la prendevi a silicone. E insomma, ne ho avuto della crisi, ho avuto molta roba. Io c'ho ancora tutto in garage, c'ho due computer da polso, c'ho quattro bombole mie, con un amico in società abbiamo il compressore per caricare le bombole, c'ho tutto, era la mia passione, poi la mucca si è stretta e non mi è entrata più. Sei tu che ti sei allargato, non la mucca si è stretta, all'inverso, avanti Gianni. Buon pomeriggio ragazzi, qua è Stampini, Enzo Bubicelli, oi. Già, la domanda è l'ascolto, intanto non sento né uno né all'altro. Oggi e fa un trattore vecchio. E ha detto buon pomeriggio, tu di pomeriggio ti sei guccato, ma te ne sei uscitato quasi di tutti. Cosa vuoi fare già? Una volta sei drumato, già cosa mi nasci dato? Come hanno aperto la porta che è entrata un po' di corrente e me ne ha tutti in terra. Vabbè, lo manco di decidato, se no trovi pizza domani panzano. Avanti, c'è Luca, non so se lo senti. Ciao Luca, non lo so, tu mi copi. Io sento solo te, l'amico Gianni non riesco a copiarlo. È assorso. Non ti sente già, non ti sente. Luca, adesso sabato si attrinza, avete l'antenna, vedrai che sentirà tutti. Andave, no, neanche io lo sento, ma chi è Luca Piribella? No, Luca arriva in Italia. Ascolta, ma arrivati nei saluti finali. Potenziometri, no, dovrebbero arrivare venerdì. Quindi va giusto quello che te lo dico. Allora ci vuole l'RF Power, ma di tu l'RF Gain e il Squerch. Del resto ha detto che la radio c'ha i finali originali, la pulizia dentro è buona, e niente già, se poi funziona magari mi la costruisco di più, capito, oppure magari me la metto in cameretta e una la lascio nel salone, mi compro il deviatore d'antenna e magari d'inverno me li tocco in cameretta rugati. Vabbè, lo puoi fare anche con l'altro apparecchietto più piccolo. Speriamo che cambiando i più pezzini vada bene. Te la puoi vedere, ma almeno sei onesto, te la aggiusti prima di vedere, non la vedi con la Roma rotta, come ti ha fatto chissà di grandi anni. Infatti, no, ma se la vengo tanto, alla fine la devi sempre vedere che funziona, se no sempre mille problemi poi ci sono, capito già. E niente, avevo mi vendo pure questa antenna VHF che va giù, avevo comprato una Diamond X30, ce l'ho dentro la busta nuova con il connettore NAPL 159 nel barbo, mi la vende 60 euro tanto la giubagata, tanto non ne ho tenuta, non ha giù VHF. Vabbè, ti può prendere anche un ricevitore, attacca il ricevitore e ascolti. Ma infatti a rapidi, dai, tanto c'ho il filo piccolino per fare l'innesto alla radiolina, quella che uso, PPR, come si diciamo. PMR. Esatto, PMR, dice che è rimasto in basso di più. Comunque questi giorni ho messo il canale, quello 156 e 650, e ogni tanto parlavano Polimar, Porto Torres, qua gasoliera sta salpando, volevo sapere se il palo di punta scorna è acceso, gli dice Raffa un attimo, Porto Torres, e sono da cucini da inghibili, cosa è Porto. E a te li altri viaggi, dai, c'è avuto il nominativo del rimorchiatore. E deve essere che gli dice il nome del rimorchiatore, poi gli ha detto che erano, dopo che sono partiti, gli ha detto che erano già 5 miglia, gli ha detto allora buona navigazione. Deve essere, gli ha detto anche le condizioni del mare, però quello non l'ho sentito perché mi ero spostato 5 minuti a pigliarmi le pulita di leva fresh e una mesa Schweppes, perché me la mischio sempre, se no è tutto vuoto di salimonata Schweppes. E la inquina, le lacque, avanti Luca. E io mi sto dilettando a fare un po' di pulizie, che mi ho sistemato la stanza qua e vi sto ascoltando, o meglio, sento solo te purtroppo, continuate comunque. E già, io che gioco tutto a pugno, non più va su, ho degli apparecchi che vanno bene, li uso, se quando vanno, vanno, cardi. Oh, com'è che la vedi? Non pensavo che rimanevi con Luca. Con Luca? Sicuro pure se lo occupavi te. No, con Luca, visto che finanza ora. No, sta facendo le pulizie, Luca ha detto che ascolta a me, perché a te non ti sente. Ha detto di continuare, che lui sta facendo delle pulizie. E anche io ho bisogno di cavare tutti gli apparecchi, pulire, devo stare molto attento con i figli, anche se inciampo nel rimbrio questo casino lì. Infatti, ma camigliare un panno umido e fai un po' di senza magari dietro lo pulisci in un altro momento con più calmo e andare a ridu di Facebook e che se due va a prendere che ha delle camere nascosta che da prima vincia. Comunque la Sardegna e la Giamaica d'Italia, non hai visto? Io Bruenda, sei come ti dirizzi, rosmarino viene piantato. E l'americano si lavora in comparanza, oppure se ne è in base. QRT per me, buona serata a tutti e mi ritiro, ciao, alla prossima. Vai lì che usa terra mia. E fatti vedere. Ciao Luca, se mi ascolti, ciao, buona serata. Anime di Bobo, niente, un gurgoso, un bicone, tutti che attaccato, bici che nei femmini. Via. Ehi. Ah, cosa a lui, vicino a Urbia. Questo pastore è andato a pascolare le pecore, è tornato a casa, cazzo c'era un zinga dentro casa sua, gli hanno occupato la casa. Lui non ha chiamato di pulizia, ha chiamato, ha tirato i massoni. Sono andati tutti in greffa, anche se era tutto una giusta a tirare in mano. No, figli, è arrivato un sciabucco, è arrivato. Ma come arrivano via che fuciletto a Cannamotte? Se non l'aveva detto, a ballate, e ha avuto 4 tiri di balla a tutti. L'avevi visto? Fuggendo già, sì. C'è una cosa incredibile. L'altra volta stavamo parlando, tipo dove vado io, no, a fare la terapia, che c'era una infermiera che è di Utilo. E mi ha detto, ma non è tutto così, non è tutto nel buon faccio. Ma cosa no? Ma ci sono tutti quanti veri nei roghi, con l'accusa che le chiamano risorse. E sono tutti delinquenti, la notte andano alle campagne azzene a pulare che vai a mangiare i dell'altro. E poi mi dici che non sono delinquenti. Ma io e la sema figli, vicino a viene arrecato di manco di chi sta ieri, forse la metà di muro più bello per la metà di muro che è solo paga fa bisogno a vero che andando a domandare assistente sociale. E invece vai all'assistente sociale e con la scusa ti dice tuo marito basta stare le maniche a lavorare. E se te non ce la ce n'è, come fa quel povero giovane a lavorare? Lui io non li comprendo più a lui. Casino, a Sassarivecchio se ne sono tutti bugelli, a che furavano i muri la roba che se andavano, se la rubavano, questi di colore, e rubavano la roba stessa. Non lo leggo ogni tanto, che dice non si può più vivere in quei quartieri, che è tutto tanto presidiato da questi nordafricani e usavecchi. da buio ci ne sa fare chi lo ha venduto a chi lo invece che l'aveva venduto eccetera eccetera eccetera. E quella lì quando rubano queste cose stesse qui e lì, e da poi rimandano a ribare Gesù e si riprendono in ghibini. Il capo non se ne pigliano i vostri di marca, maglietti di marca, mica si pigliano che la cosa non fai, no? E allora mi com'era nei pigliatori di Gesù, appena comprati, la moglie li ha lavati, li ha stesi per togliere la bomba, eh? E se li ha stesi, manco una voce si la buccia, si l'hanno murati. No, anzi, vedi al sucro una pigliatura, ma cazzo, ma lo vento mi sei appuccato. Non va bene, già, non va bene, perché, cioè, già, prima era un quartiere un po' disagiato per altri motivi, ma va, è un quartiere che è diventato delinquente, a una certa ora non vi bubbassi già in ghibie, a chi te ne strappa, ne pensa che la Reci, la mostra Reci, vi pigliano lì. Che lì a San Donato c'è il miglior forno della Ferì che c'è a Sassari, è la più buona che c'è, perlomeno tutti lo sanno. Andavamo tutti lì a comprare, ma non erano dei biscioli che mi sono inediti, si mettono all'entrata del picco tipo come sentinelle. E io ho avuto una passata di chissà canzoni, di Balduce, di Balduce, di Balduce. Oh, io, cazzo, ma non mi faccia con quindivo. Quando la mia infanzia già era tutta un'altra cosa, che eravamo più, come si può dire, spensierati, non venivano il telefono, non veniva internet. Magari c'era un frutteto, andavamo al frutteto a mangiarci due mandaranci, magari si faceva mica che battagliuga. Però era una cosa più genuina, più naturale, e niente. E andavamo a fare l'ubicuba, a pigliare i gasteggini e tutte queste cose, che vicino dove abito io è tutto a Rivari, qui c'è una fontana, e con la scusa se andiamo in bicicletta, oppure quando avevamo i primi 14 anni con un motorino, l'usina, Vespa, ogni tanto una rucigliata in cammino bianco, tutti i canti pieni di più, con redenamo di gatti. Ora non è più così, ora vanno i telefoni, si rinchiudono dentro casa e da voi dici, ma l'obiettivo è disagiato a chi non fa niente. Te lo credo, grazie la vedi dato il telefonino, la creatura, e chi oramai è sempre con un zebbetto zicchene, che stavo cercando le zicchene in internet, e da voi stanno in paranoia. E dopo ci sono anche questi bastardi che li vogliono al suicidio, che li bullizzano, capito? E c'è tutti i colori su internet, bisogna stare molto molto attenti ai figli. Io, mio figlio, quando entrava al computer c'ero sempre io dietro, o io o mia moglie, sempre. Perché lui giocava con i giochi che gli piacevano, si metteva la musica, però era sempre controllato, un occhio uno, un occhio l'altro, non faceva mai cose che non doveva fare. E tuttora è così, c'ha le sue amicizie, c'ha le sue cose, però ogni tanto un'occhiata gliela dai, anche se è grande adesso, però è sempre meglio controllare i figli. Io a mia figlia sono andato anche a controllarla di notte, che uscivano con le amiche e cose, doveva venire e andavo di lì che mi andava, già mi andava e la beccavo, la vedevo da in lontana, ce la controllavo. Ho fatto anche queste cose, non mi vergogno a dirlo. Ma sono cose, cioè, per esempio, un babbo che ha i denari migliori fa così, certo, è giusto per vedere se proprio effettivamente spende lo utilizzi e basta. Però ai tempi di oggi, come se stessi in un locale di Capodanno, cioè tu non puoi mandare questi ragazzi minorenni a Riccardai, di Guccini, dentro in un bar, che sono tutti quanti fuori di testa, che da voi magari chissà cosa si hanno bevuto, e alla fine hanno buscato locale Jugendi, così prendi le stelle luminescenti, queste fontanelle luminescenti. che avevano avuto molto 6, tutti a pezzi come a stessi l'avevano rimasto a bloccare. A me questa cosa non mi quadra tanto, come ti ha fatto a pigliare buco così in fretta? Poi avrebbe avuto dire che cosa che incendiava subito, perché non è possibile che prenda, il legno prenda poco così in fretta. Il legno, non si è meglio di me, no, quando deve sentire un buco mi volevo le stoppe prima per far sentire la legna. Non è che l'accendi così, no? Invece questa fiamma ha provocato l'incendio, ma non capisco come abbia fatto, è quello che non mi guarda. Come la che cosa questa legge è bevuta nel legno di buso di qualche cosa che prende fuoco? Già, praticamente, allora io più o meno ne sono pochi, mio padre lavorava all'ufficio nascosto, babbo faceva il barista all'ufficio da Dio Salvatore e niente, e la notte quando c'è un bel gente che si crea quel vapore e tutti fumano e tutti e si fa una sorta di, come si dice, di acidità sopra il soffitto, capito? E quindi lì quei pannelli sono assorbenti che non erano ignifughi, come stanno i bigliadurruchi di fuoco che erano impregnati magari di sudore, di tutti quanti il vapore, del grasso, perché poi alla fine si impregnano di questi vapori di... E lì come ha preso un po' fuoco, vi ha scaldato e poi la legna tutta un'ora si è accesa di golfo perché c'era il caldo, non c'erano condizionatori ed era un ambiente chiuso e poi quello che non comprendo io, come hai detto tu, cioè, ma quando mai lì non c'era un, come ti dico, un vigilante, un coordinatore che controllava questi ragazzi? E invece no, erano in via di Bagiungu, tutti i filmeni, a ne riparava la plastica giù in capo, raga. Cioè, buono, dico, fuggi, dai che vedi sudando subito, fuggi, andi a dini, cosa stai in ghibi, a vedere, a ridini, vieni. E sono morti come degli scemi sono morti. È uno strazio, per i genitori è uno strazio che un figlio sia morto così, senza essere pronti, senza essere ammalato né niente. È proprio una cosa bruttissima. Adesso mi ha indagato il proprietario, a lei l'hanno messo agli arresti domiciliari, però chissà se salterà fuori, dice che lei è scappata fuori o la cassa, chissà cosa verrà dentro questa cassa, magari per la droga, per la roba così. Già, e cosa vedi? Avere tutti i canti di dinari, di rivigite che ci hanno incomparato all'interno, perché poi alla fine non era neanche una discoteca, era un pub ristorante, nel senso che faceva panini, rivigite, e l'hanno chiamato un DJ, hanno fatto una sorta, come si poteva cercare di surbiccarigli, di mulare, all'epoca non so se l'hai conosciuto, o come c'era a Signori di fronte al campo, quella discoteca che era fatta dentro anche su Rapipu, eccetera, eccetera. Però c'era la gente che controllava, cioè che magari succedeva qualche cosa di strano, ma erano che erano tutti lasciati allo sbando questi ragazzi, e un po' la colpa la doveva anche ai genitori, perché a una volta dai, non li puoi mandare in continenti così da laggiù in un altro luogo. Cioè, boh, non lo so, guarda, forse magari ha già un altro tipo di educazione io, però non ci vedo chiaro in questa faccenda, neanche io. No, hai ragione, che quando sono minorini i ragazzi vanno seguiti, se no quando hanno 18 anni poi li seguo lo stesso, però la responsabilità è loro, devono stare attenti loro. Dopo che compie 18 anni, però se da 18 anni li segui sempre, però quando sono minori ancora di più, io se uno sa fare il genitore, il mestiere di genitore dovrebbe essere difficile, però bisogna anche saper dare l'educazione. È certo che sì, lo devi istruire, lo devi dire sti cose, di rimanere attento, vigile. Vabbè che in continente sono più avanti di noi, oramai si non un gioco, visti vanno la fidanzatina da 12 anni e si avveniamo un tenni da 12 anni, quindi il debito oramai è già fattuto e quindi se sono già più grandi dell'età di quella che hanno, mi capite? Ehi vabbè, ma perché? Perché sono a briglia sciolta. Io prima, quando ero ragazzino di quell'età lì, c'ero che andavo a giocare a pallone, con Patti, l'ho fatto da lui, a Ballucci, ecco cosa facevamo, giocavamo a pallone, ma non abbiamo mai fatto di queste cose, cioè io sono andato a ballare che avevo già 17-18 anni, e di nascosto pure a chi mamma non via. Non c'è andare in quei posti che trovi tutta gente strana, ti mettono a rubare i bicchieri. La discoteca va, bisogna stare pure attenti, perché se tu lasci il bicchiere sopra il mancone, uno va a dimorare a Marsiglia in mezzo, e via, e ti droga, e comincia, specialmente alle donne lo fanno, poi quando si sentono male, ma nel mare sarebbe violenta, lo capito? E allora, ma non va bene così, non va bene perché non c'è più disciplina, non c'è autocontrollo, sono tutti lasciati un po' perché magari i genitori sono anche giovani, a chi cosa ne gioco, buonavere dai me, buonavere, buonasera di 1970, di 80, di 1977, di 83. E quindi città che hanno un figlio di 16 anni, però lo devi seguire, non è a chi cura accusa Romano e Mengive e noi se ne andiamo a farsi la vacanza in Giamaica, cosa badissimo, oppure ai Caraibi, ai Filippi. E quindi c'è un po' di menefreghismo da quell'età. Sì. Allora c'è meno. Meno interesse per la famiglia adesso, le donne si riesce ad andare con l'amica a farsi l'aperitivo, i figli a casa rasura, quando si è mai visto, mamma non li mangia, mamma non li dava nessuno i pizzichi, e una volta che ha avuto l'urgenza, che ha dato a mia sorella, a quella di fronte, ha detto mi sembra la tele mezz'oretta che devo fare questa commissione qui, e tu randa e non se la vuole andare in Brasile, se la bruciata tutto il mondo. E un attimo già sto parlando di verticale con mia sorella. Dai, ci saluto che devo andare a portare giù il cane, dai, non me ne accorto che era così tardi, dai. Ci sentiamo Gianni, buona serata. Ehi, a KK già, avremo magari già se ci sentiamo. Saluta a Tyson, pure in quattro carette e fargli fare un giretto. Chissà che non vi sia freddo anche se prenda la temperatura, però insomma là già ci sta un po' là. Ciao già, buon proseguimento e ci sentiamo alle prossime. Altrettanto, ciao, ci sentiamo. Ciao.